Insegnante. Professoressa, per l'esattezza. I miei appellativi più comuni sono prof, pro, profe, professore, proia, che poi è l'unione di... e gli immancabili stronza e puttana. Gradisco i miei appellativi? No, non li gradisco. Detto questo, e considerato che ho anche studiato per farmi insultare, per quale motivo dovrei essere indulgente con gli amorevoli studenti? Per nessun motivo! Quindi sono indulgente? No, ho appena detto che non ne ho motivo. La mia è una professione, non una vocazione. Se avessi avuto la vocazione mi sarei fatta suora. Faccio il minimo indispensabile per guadagnare quel minimo sindacale che mi spetta. Mantengo una precisa condotta, una presa di posizione nei confronti di una categoria di bestie. Esatto, credo che gli studenti siano bestie? Sì, lo credo. Gli studenti andrebbero addomesticati da piccoli, non puoi lasciarli razzolare per scuola. Oltretutto sono così fastidiosi quando ruminano. Vanno mantenuti innocui nell'attesa di rispedirli a casa nelle loro stalle. Ma ecco che, per l'incompetenza di colleghi e colleghe troppo permissivi, io mi ritrovavo a fare il lavoro doppio. Sottolineo mi ritrovavo, perché fortunatamente è una questione che appartiene al passato. No, non sono indulgente, questo l'ho detto, e grazie alla mia naturale predisposizione ho risolto più di un problema disciplinare o didattico. Non tutti, è vero, ma più di uno, sì. Penso di essere una buona insegnante, dopo tutto. Mantengo salde le redini della severità. E il mio vero e forse unico dramma è Antonio, detto Tonino, un ragazzino strafottente di terzo anno. Credo di odiare Tonino? Sì, io lo odio. Sembra che niente lo sfiori, è incredibile. Interrogazione, compiti in classe, domande a trabocchetto, ha sempre la risposta pronta e che ca... Aspetta. Un giorno ero convinta di averlo colto in fallo. Ero già quasi esultante quando lui mi ha bloccata. L'ho sentito parlare mentre spiegavo la Divina Commedia, quinto canto dell'Inferno, forse il più famoso e inflazionato. Ero sul punto. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Gli chiesi se voleva condividere la sua interessantissima conversazione con noi. E lui, per tutta risposta, mi disse che stava spiegando ad un compagno che i galeotti erano gli schiavi che remavano all'interno delle galee, le navi romane. Ma bene, bravo! Ma chi t'ha chiesto niente? Sono stata io, ma non vuol dire che doveva per forza rispondere. Non era neanche attinente. Perché non gliel'ho detto? Non lo so, non mi è venuto in mente. La cosa più irritante è l'inattaccabilità. Come potergli dare addosso? Ecco, questa è la domanda che mi pongo da mesi ormai. Mentre lavoro, mentre faccio la spesa, mentre guido, mentre sono al bagno e ultimamente anche mentre dormo, non ce la faccio più, un'ossessione! Ma può la mia ossessione chiamarsi Tonino? No, non può! Ed è per questo che devo trovare un modo per fregarlo. Oddio, forse fregarlo non è il termine giusto. Dovrei trovarne uno un po' più appropriato. Diciamo, vincere... E che cavolo, non può mica vincere lui, eh? Dargliela vinta sarebbe una doppia sconfitta, professionale e umana. Sono un insegnante. Ho una cattedra! La giustizia è bendata, proprio come la fortuna. E proprio come la fortuna non è equa. Allora perché si chiama giustizia? Non lo so, non gli ho dato io questo nome, ma sfrutterò a mio vantaggio questo fatto. Sarà la mia giustizia. E visto che il normale addestramento bestiame non porta frutti, dovrò adottare un'altra tecnica. E io odio dover trovare altre tecniche. Ma sarò gentile, disponibile, compiacente, addirittura dolce se necessario. E quando meno se lo aspetta, nel momento propizio, tiè! Te lo faccio vedere io chi può cantare vittoria! Non metterti contro di me, bello, io faccio l'insegnante. Lesbica! Lesbica, lesbica, lesbica... Lesbica. Io sono lesbica. Arduo da intendere? No, suppongo di no. Tuttavia molti non lo comprendono, altri non lo gradiscono. Non espongo le mie preferenze sessuali. La mia persona non ha necessità di queste cose. Ne converso solo se d'obbligo. Non dilapido il mio tempo in futili comunicazioni. Non impiego la mia cavità orale per espormi alla pubblica accusa. Scevra da qualsivoglia irresolutezza, vaglio le mie possibilità. Pormi come agevole bersaglio alle indiscrezioni di massa o adottare una controffensiva preventiva. Come parlo bene. E sono anche lesbica. La mia ascensione al cielo è ben lontana. Spontaneamente leggo la seconda opzione come mia volontà. Incarno la perversa perfidia, dando adito alle voci per le quali, in quanto lesbica, frustrata e vanificata dall'assenza di fallo, perseguo il castigo altrui. Inversamente a ciò che si ritiene non mi compiaccio delle punizioni inflitte. Le metto in essere in quanto trattengo azioni insurrezionali nei confronti della sottoscritta. Se dovessi curarmi del giudizio di compagni, professori, operatori scolastici, o Dio non voglia genitori, avrei considerato la mia posizione prima di fare outing. Tutto sommato, la mia condizione è un certo agio, palese a pochi. È facile perdere credito agli occhi di chi ci circonda, mentre se sul fondo è la tua dimora, l'incognita del crollo rimane remota. Detto ciò, si suppone che io non abbia amici. In vero è sono pochi e ben cerniti. In particolare la mia benevolenza si concentra sul mio gruppo, Speed Queen, una piccola compagine di persone appassionate di power metal. In principio 5 elementi, voce, basso, batterie e 2 chitarre, ora semplicemente in 3. Io, leader inoppugnabile alla voce, Sandro alla chitarra e Lorenzo alla batteria. Bravi. Il disavanzo dei soci venne eliminato per controversia artistica. Nel corso di un'esibizione espressero il loro pensiero musicale contro di me. Inutile affermare che ebbero la peggio. In ogni modo la si riscoprì per pura stentazione. Credo che Sandro e Lorenza non sostennero la causa dei nostri ex compagni per ragioni squisitamente personali. Sandro voleva possedermi e Lorenza bramava Sandro. E in quanto a me, l'idea di immergermi nell'intimità di Lorenza stuzzicava il mio diletto. Si era dunque formato un triangolo particolare dal quale sarebbe stato difficile svincolarsi. Di questo ne ero erroneamente convinta, poiché nelle giornate che fecero da sfondo all'autogestione, successe l'imponderabile. Sandro e Lorenza consumarono la loro voglia nell'aula di biologia. Probabilmente le raffigurazioni anatomiche avevano fatto da macabro cupido. Avrei potuto unirmi alla coppia per completare il triangolo. Avrei soddisfatto del tutto le voglie di Sandro e le mie. L'usanza ormai instaurata nella mia quotidianità rendeva inattuabile tale probabilità. Dunque mi si immoto la mia soperchieria. Soperchieria. Parlo sempre meglio. Ancora presi dal loro atto, annebbiati dai fumi dei sensi, organizzai un corso mai visto nella storia delle autogestioni. Riproduzione applicata. Senza bisogno alcuno di pubblicità, il corso ebbe popolarità già dal suo annuncio tra allievi ed insegnanti, e quando venne portato alla luce il suo contenuto, il fragore iniziale esplose. Per alcuni innovazione e per altri in scandalo. Sandro e Lorenza sono stati sospesi. Ora sono illustri celebrità in più di una scuola. Gli Speed Queen hanno nuovamente 5 componenti, naturalmente con una diversa cantante. La mia cerchia di amici si è ulteriormente ristretta, ma non importa. Mi basta crogiolarmi in questa corazza così soffice e sicura. Il mio ego. Chi fuma è un coglione. Lo dico con cognizione di causa. Puoi essere medico, commerciante, avvocato, cameriere, ingegnere, operatore ecologico, tutto insomma. Se fumi, sei un coglione. E se questa mia affermazione qualche fumatore si offende, dimostra ancora di più che la mia teoria è giusta. Fumare, indipendentemente da quello che si fuma, è un'idiozia tale che non capisco come possano persone che si ritengono intelligenti, e ne conosco molte di persone che si ritengono intelligenti che lo fanno, ecco, non capisco come possano fumare. Io non affermo questa mia convinzione su una base medico-scientifica, anche perché non servo io per dire che il fumo fa male. Bastano le terrificanti scritte sui pacchetti di sigarette, tanto terrificanti quanto inutili vista la persistenza nel fumare della popolazione mondiale. Le mie argomentazioni si basano su una questione pratica. Perché? È una domanda semplice, molto semplice da pronunciare e da porre. E assolutamente legittima, no? Quindi, perché? Spendere soldi per comprare tabacco arrotolato in un pezzo di carta, metterselo in bocca, accenderlo, aspirare e poi soffiare. Perché? Non ne capisco il senso, l'utilità. Non è come i gavettoni d'estate. Se li fai o no è uguale. Sì, ma cavolo, sono divertenti. Il fumo non mi sembra così divertente. Certo, fate eccezione delle sostanze stupefacenti. E comunque, oltre a non essere divertente, ti fa puzzare. E allora io mi ripeto la domanda. Perché? Qualche risposta ho cercato di darmela, ma senza grossi risultati. Tipo, rende fichi. Può un elemento grande meno di un dito rendere fichi? Evidentemente sì, ma allora prendi un bracciale, un anello, cose del genere che compri una volta e non devi dargli fuoco. Oppure, rilassa? Aspirare la sigaretta ed espirare fumo rilassa? Ok, ma conosco un sacco di fumatori che fumano dopo il caffè. Cos'è? Una specie di anticaffeina? Oppure chi fuma dopo il sesso? La sigaretta fa recuperare le calorie bruciate? Proprio perché non trovo una risposta plausibile, dico che chi fuma è un coglione e ripeto indipendentemente dal punto di vista della salute. Questa è la mia convinzione, questo è il mio credo, questa è la mia missione. Sì, missione. Nel mio piccolo faccio quello che posso per fermare quest'idiozia di massa che è il fumo. Ma per carità, io sono una persona estremamente aperta, tollerante con tutti. Non importa che cosa tu faccia, basta che non venga a cozzare con quello che mi dà fastidio. In sostanza, non rompere. I miei rimedi sono semplici e spesso anche funzionali. A casa taglio le sigarette e le reinserisco nei pacchetti. In palestra, quando trovo un pacchetto di sigarette, lo butto sotto la doccia. E a scuola... beh... a scuola la lotta è dura. Mi sento solo contro tutti. Sì, tutti, perché tra colleghi, studenti, bidelli e professori ce ne sono veramente pochi che non sono corrotti dal brutale vizio e quei pochi non sono come me, non lottano per la sanità mentale! I compagni di classe ormai lo sanno e non ci provano neanche a fumare vicino a me. Quando entro nei bagni faccio più paura io del vicepreside. Quel nano dice sempre che non bisogna fumare nel bagno e lui fuma nel bagno dei professori. Ipocrita. Non dovresti fumare e basta. Io, quando vedo un compagnuzzo di scuola che fuma, non gli tolgo la sigaretta, non cerco di parlarci. Ci ho provato tante volte, ma sembra che nessuno mi ascolti. Io lo prendo, uomo o donna che sia, mai fare distinzioni sessiste per queste cose, lo trascino fino al bagno, lo capovolgo, gli infilo la testa nel lavandino e apro il rubinetto. Ci pensa l'acqua al resto? Magari non è un rimedio permanente. Ma vedi come capiscono, e almeno davanti a me non fuma nessuno. Non che a me dia fastidio, ognuno fa ciò che vuole della sua vita, io sono una persona estremamente tollerante, ma odio i coglioni e per me chi fuma lo è. Quindi, davanti a me non dovete fumare. Dicono che parlarne aiuta. Secondo me è una cazzata, anche se ora ne sto parlando. Non sono sconvolta, sono arrabbiata. Molto arrabbiata, ma non sconvolta. Non credo di essere mai arrivata al punto tale di essere sconvolta, neanche quando ero piccola. E qualsiasi inezia sembrava chissà cosa. Ora sono abbastanza cresciuta per capire cosa prendere sul serio e cosa no. Questo episodio va certamente preso sul serio. Ma non è da disperarsi. In fondo, cosa vuoi che sia un'amica? Dopo che ci passi... più di 4 anni, sempre a strettissimo contatto, spalla a spalla, gomito a gomito, stessa classe, stesso banco, stesso autobus, stessi gusti, in poche parole tutto. Io e Chiara abbiamo condiviso cose che neanche coppie sposate da 20 anni condividono. Ma poi è tutto sparito, di punto in bianco, come se non ci fosse mai stato nulla. La ragione? Vaga. Spiegazioni? No. Che poi... io non avevo neanche discusso con lei, inizialmente. Avevo discusso con quel mezzo finocchio di Mario, dico mezzo finocchio perché anche lui è molto incerto sulla sua sessualità, e mentre io e lui non ci parlavamo, Chiara stava in mezzo, un po' da me, un po' da lui, non prendeva una posizione. Decidi, cavolo, o con me o con lui! A lui parlava di me, e a me parlava di lui. Ci incitava a parlare. Voleva che mettessimo le cose a posto. Io e Mario... avevamo litigato per un progetto di scienze, le cellule. Il capogruppo ero io, e quindi tutti facevano riferimento a me prima di decidere. Il giorno della consegna, Mario non mi aveva ancora portato in visione la sua parte del progetto. La cosa più logica era quella di eliminare quella parte, in fondo. Chi se ne accorge se mancano i mitocondri? Mario però non la pensava allo stesso modo. e quel giorno si è presentato in classe con un cartellone immenso dedicato ai mitocondri, senza farmelo prima visionare. La professoressa è rimasta entusiasta e ha appeso il cartellone in corridoio nel posto migliore, come se i mitocondri avessero tutta quell'importanza. Qualche ora più tardi, improvvisamente, un fenomeno di autocombustione lo ha distrutto. Guarda tu a volte i casi della vita. La mezzachecca accusa me solo perché quando è successo io ero in bagno. Capita! No, dico, di andare in bagno. Comunque dopo qualche mese e mille suppliche ci siamo chiariti. Però sono venuta a sapere cose non troppo gradevoli. Io e lui non ci parlavamo e Chiara parlava alle nostre spalle, all'una dell'altra. Autocombustione, pensai. No. Giocai d'astuzia. Se lei aveva parlato male di me, perché non restituirle il favore? Spingendo i tasti giusti, è facile portare qualcuno dalla tua parte. Le aizzai contro tutta la scuola, per un motivo o per un altro. Persone che magari non si erano mai parlate la odiavano e formavano fronte comune per darle addosso. Scritte sui muri del bagno, insulti, scherzi, spintoni e chi più ne ha più ne metta. Mi hanno dato proprio ascolto. Bravi. Vedere Chiara che subiva così tanto era divertente, per un po'. Poi non lo è stato più. In fondo era sempre la mia migliore amica. Ma stavolta io non lo ero più per lei. A pensarci bene, non so perché l'ho fatto. Non per le parole dette alle mie spalle, no. La nostra amicizia così duratura, sincera, qualche parola non l'avrebbe scalfita. È che mancava qualcosa, ci voleva un brivido. Ero alla ricerca di qualcosa di nuovo, un'emozione diversa da quelle che già conoscevo, che non fosse così di routine. Era proprio così, pura e semplice routine. Ma quanto mi manca. L'amore è un brivido caldo che ti corre lungo la schiena. L'amore è passione. L'amore è uno sguardo ipnotizzato verso il tuo lui. L'amore è energia. L'amore è un sospiro sofferto. L'amore è aria. L'amore è il rossore che ti colora il viso quando lui ti dice una cosa. L'amore è sangue. La prima volta che l'ho visto, ancora la ricordo. La prima volta che ci siamo incontrati, lei non la ricorda. Eravamo in gelateria. Eravamo in piscina. Era con i suoi amici. Ho visto che mi guardava mentre parlava distrattamente con loro. Era con sua sorella. L'ho notata subito, con quel costume arancione che risaltava la delicata abbronzatura. Dopo che si sono salutati tutti, è salito sul motorino. L'ho acceso, ma non se ne andava. Poi, quando è rimasto solo, l'ho spento. Quando l'ho incontrata in gelateria, le dovevo assolutamente parlare. E si è avvicinato. Appena ho potuto, mi sono avvicinato. Era così impacciato. Non sapevo cosa dire, ero nervosissimo. Ma dolce da morire. Ho cominciato chiedendole quali gusti preferisse. Mi ha chiesto del gelato. Per poi buttarmi a capofitto. Mi ha detto che era una visione celestiale. Forse ho esagerato, ma quelle parole sono uscite da sole. È stato un disastro. Che idiota. Un dolcissimo disastro. E abbiamo continuato a parlare. Per tutta la notte. Non le ho chiesto il numero di telefono. Credevo di non interessargli poi così tanto. Altra idiozia. Mi chiedevo se ci saremmo rivisti. Dove avrei potuto rivederla? Scuola? Scuola? Nella stessa scuola. Eppure è strano. Non ci siamo mai incontrati. Che strano. Dicono che io sia innamorata dell'amore, dell'idea che ho di esso. Non ho paura di esprimere i miei sentimenti davanti agli altri. Credo sia bello poterlo fare in piena libertà. Anche se fino ad ora non avevo ancora trovato la persona giusta, quella che potesse completarmi. Non ero una di quelle persone che credono nel colpo di fulmine, ma quando ho incontrato lui è cambiata tutta la mia prospettiva. Ho guardato nei suoi occhi per la prima volta e ho visto più di un ragazzo all'apparenza spavaldo, ma al tempo stesso terrorizzato da una possibile figuraccia imminente. Ho visto quello che mi mancava, la mia metà. Sapevo che presto o tardi l'avrei trovato. Gli amici sono importanti. Anche le ragazze, però. Per il mio lavoro estivo, il bagnino, sono un po' invidiato dagli amici. Loro credono che sia la mia posizione a rendermi così appetibile alle donne. Sbagliato. Io ho un certo ascendente sull'altro sesso, l'ho sempre avuto, anche prima di intraprendere la professione. Anche se, quando l'ho vista per la prima volta, ho perso qualsiasi mia arma. Già, Comunque, gli amici mi ammirano, mi vedono come il guru del rimorchio. Io riesco dove gli altri possono solo osare immaginare. Questo mi piace. Mi fa sentire fico. Ci sto bene con i miei amici, a loro piaccio. Ci sto proprio bene. Anche se in realtà non è quello che voglio. Io cerco qualcosa di profondo, non una o più storielle estive. Lei non lo è. Non lei. Aspetta. Aspetto cosa? Non lo so, aspettami. Perché? Parlami. Parlarti? Per dire? Non lo so. Allora cosa parlo a fare? Se non vuoi, allora parlo io. Parli tu, parlo io, che cambia? Ma proprio non ti importa. Dovrebbe? Pensavo che fosse scontato. Non do mai nulla per scontato. E io? Cosa? Tu cosa? Non merito almeno una spiegazione. Non c'è una spiegazione, è successo e basta. È tutto quello che hai da dire. Altrimenti parlerei. Sei così diverso. Ma diverso da cosa? Da chi? Da te. Cosa ne sai di come sono? So quello che ho visto. Non sai niente. Perché? Sei stata una scommessa, un gioco, lo vuoi capire? No! Non mi interessa quello che pensi, erano tutte bugie, un mare di cazzate. Non è vero. È così. Io ti ho guardato negli occhi, ho visto dentro di te. Beh, hai visto male. E che significa? Che hai visto male, ti sei sbagliata. Non posso essermi sbagliata. Accettalo, non era vero niente. Io ero vera. Io sono vera. Tu lo eri. Solo che ora hai paura di ammetterlo. No, tu hai paura. E perché dovrei? La verità ti terrorizza. Forse. Eppure sono qui, a parlare con te. Sei tu quello che vuole scappare. Io non scappo. Vuoi parlare? Parla. Di tutto quello che ti passa per la testa. Fa le tue supposizioni. Puoi spararne quante te ne pare. Non cambia niente. Io quello che dovevo dire l'ho già detto. Non tutto. Tutto. Non sì. Il motivo. Una scommessa, una stupida, stupidissima scommessa. Sì, ma perché? Che cosa ci guadagni? Niente, per divertimento, per ridere. Per ridere di me? Esatto. O per ridere di te? Di me? E chi? I tuoi amici. No, lascia perdere, non capisci. Sì, che capisco. Capisco che non lo sai neanche tu. Sì, non lo so neanche io. Non so perché l'ho fatto. Adesso mi fa schifo anche solo il pensiero. Faccio così ribrezzo. Sì. Hai esitato? No. Sì, sì, hai esitato. E anche se fosse, non significa niente. Per me sì. Beh, tienili per te i tuoi significati, tanto non cambia nulla. Magari per te no. Forse non mi sono spiegato, non cambia né per me né per te. No, certo. Certo. Almeno io sono sincera con me stessa. Complimenti, Miss Sincerità. E che ci guadagni? Beh, posso ancora guardarmi allo specchio senza vergognarmi. Oh, davvero? Dimmelo. Cosa? Perché? Adesso ascoltami bene. Se mi sono avvicinato a te, era solo per una dannata scommessa. Ora basta. Puoi urlarlo e forse lo farai anche per tutta la vita. Ma le tue parole sono vuote. Sono come un sorriso senza felicità. Non hanno valore per chi ne capisce la differenza. E i tuoi amici la capiscono questa differenza? No, non credo. E la cosa più triste è che tu non sei come loro. Sei peggiore. Molte delle cose che fanno non ti piacciono, ma le fai. Hai la consapevolezza di essere diverso e una gran paura che lo scoprano. Vattene. Sì. Risate, rumori, silenzio. Odore di detersivo per pavimenti, qualcosa che mi sfiora il viso. Niente. Una sedia marrone, un asciugamano rosso, buio. Ho ricordi vaghi, frazioni di immagini, ma non riesco a ricomporre i pezzi. Mano a mano che passa il tempo poi diventa sempre più difficile. Cerco, mi sforzo di ricordare, ma non viene fuori nulla. Potrei cercare di descrivere le emozioni di quel momento, ma erano talmente tante, tutte insieme. Ho provato a sviscerarle. Pensavo di riuscire a recuperare qualche ricordo passando da ciò che avevo provato, ma nulla è chiaro. So quello che è successo in base a ciò che mi è stato raccontato dagli altri. Io di mio non so cosa dire. Non era la prima volta che succedeva. E questo lo so per certo. Si faceva sempre in tre, non so se fosse una casualità. Sicuramente non era casuale che ci fosse sempre Diego. Lui era il famoso capobranco e in base alla sua missione sceglieva due segugi che seguissero i suoi compagni. Anch'io ho fatto parte dei segugi. Non è un vanto, ma una constatazione. Come molti, ero alla ricerca del mio posto nel mondo e credevo che quella fosse la parte giusta. Dopo qualche tempo capii che non era così. Mi distaccai gradualmente da Diego e dai suoi adepti per ritrovarmi dalla parte dei bastardi, così venivano chiamati. Non ero uno di loro, io non mi consideravo uno di loro, ma le mie azioni dimostravano il contrario. Nonostante la mia posizione semineutrale, non tolleravo che venissero presi di mira. Gli scherzi che subivano, se scherzi possono essere chiamati, come quando venivano infilati con la testa nel cesso e si tirava l'acqua. Ecco, io ero il loro amico non amico solitario. Fermavo i segugi quando ci riuscivo, perché quando non ci riuscivo ci finivo in mezzo. A volte tornavo a casa con qualche contusione o abrasione, ma loro non se la cavavano tanto meglio di me. Incredibile, come di quella giornata ricordi tutto, se mi concentro anche nel dettaglio, ma non riesco a ricordare proprio quello. Una giornata di inizio primavera, quando senti che nell'aria c'è un filo di tepore, il cambio, ma ancora stenta a farsi strada. Il buongiorno si vede dal mattino, è tutta una fregnaccia. La giornata può cominciare nel migliore dei modi, ma se ha deciso che deve andare storta, non ci metterà molto a fartelo capire. Arrivato davanti a scuola, Ennio il bidello, come si dice oggi il collaboratore scolastico, non mi fa entrare perché avevo fatto 2 minuti di ritardo. Per 2 minuti di ritardo ho dovuto aspettare 1 ora fuori scuola. Ma cosa mi potevo aspettare da lui? Stava con Diego? Sì, perché nella folta schiera dei segugi di Diego c'era anche Ennio il bidello. Chissà cosa aveva poi di così affascinante per attirare a sé tutte queste persone. 1 ora senza sapere cosa fare, ma prima o poi, per quanto sembri lungo, il tempo passa e sono riuscito a entrare a scuola. Ero in classe. Io sedevo in un banco in prima fila, centrale, praticamente in mezzo a tutti, ma isolato al tempo stesso. Non ero sulla sinistra con il branco e non ero sulla destra con i bastardi, che nonostante fosse moralmente dalla loro parte, continuavo a chiamarli bastardi, non so neanch'io il perché. Il mio banco era unico, il solo ad essere singolo. Tutti gli altri erano per 2 persone, e forse avrà voluto dire qualcosa. Qualche minuto dopo, vengono a chiamarmi dicendomi che ero desiderato in presidenza. Non era la prima volta che succedeva, ma questa volta non sospettavo neanche il motivo. Scendendo le scale incontro Ennio, che guardandomi sorride. Non capisco e tiro dritto. Arrivato davanti alla porta della presidenza, busso. Mi fanno entrare subito. Mi accomodo sulla sedia di destra di fronte alla scrivania del preside. Sull'altra c'era seduta una signora. Il preside espone il problema. La signora era la madre di Carlo, mio compagno di classe, e si era venuta a lamentare del mio comportamento nei confronti di suo figlio. Sosteneva che io la prendessi in giro pesantemente perché era effeminato e che lo chiamassi frocio. Io in quel momento non sapevo bene se scoppiare a ridere o arrabbiarmi. Non era vero niente. Non era neanche frocio quello. Mi sono beccato un predicozzo di almeno 20 minuti dal preside, che senza aver sentito la mia campana ha creduto nella mia colpevolezza. Bene, torno in classe e vado direttamente al mio posto. Non mi giro, ma sento gli sguardi e ne sento anche la differenza. Chi mi guarda incuriosito e chi mi guarda divertito, e infatti non ci vuole molto perché scatti la risatina. Io non mi giro, non voglio neanche pensarci. Dopo un po' cominciano ad arrivare le palline di carta sputate a cerbottana con la penna Bic. E lui, il finto frocio, si è avvicinato e mi ha messo una mano sul culo. Da lì sono a conoscenza dei fatti che mi hanno raccontato. Pare che per un attimo io abbia girato la testa e una di quelle palline sgocciolanti saliva, si è arrivata sulla mia guancia. Io ho preso il quaderno che avevo sul banco e alzandomi l'ho lanciato verso uno dei tiratori. Carlo, che aveva appena tolto la mano dal mio sedere, smette di ridere. Sembra che io l'abbia colpito con la sedia, più volte, strillando. Il giorno dopo sul giornale c'era scritto che era stato vittima di bullismo. Io, che a modo mio cercavo di essere dalla parte del giusto, avevo sbagliato più di tutti quei cani che seguivano Diego. Per uno scherzo idiota ero diventato il peggiore di tutti. Eccomi immersa nei miei ricordi. Da quando ne ho memoria, ho sempre sognato il principe azzurro. Da piccina ti riempiono tanto la testa di queste storie che anche quando sei grande e disillusa una punta di speranza ti rimane. E allora cominci a sognare, a sperare che non siano tutte stupidaggini, quelle sull'amore vero che può nascere anche nel mezzo di una tragedia, che sia forte contro tutto e tutti. Il mio principe azzurro sarà così. La sua figura non è mai stata chiarissima nella mia testa, ma il suo carattere forte e deciso sì. Lo immaginavo scuro, a volte castano. Per la maggior parte delle volte il bel tenebroso moro, occhi verdi. Fisicamente poteva essere alto e muscoloso o di altezza media e scolpito, non troppo pompato, ma una statua. Mai basso con la pancia. A volte a cavallo, altre su una moto sportiva. La cosa comune di tutti i sogni era la nebbia. Non vera e propria nebbia, ma una specie di foschia che non mi faceva vedere bene il suo viso. Ho sempre avuto la certezza che se fossi riuscita a vederlo, lo avrei riconosciuto per strada. Lui avrebbe riconosciuto me e saremmo stati per sempre felici e contenti. Ed eccomi in classe, al risveglio dal mio sogno ad occhi aperti, con il solito sfigato che mi sta davanti, Nicola. Perché dopo un sogno così bello, rilassante, in un certo senso delirante ed erotico, devo avere questa visione per nulla celestiale? Un rosso! Io odio i rossi. Ok, non è un grassone, ma è rosso. Avessi avuto almeno la decenza di nascere con gli occhi verdi, sarebbe stato un minimo interessante, ma con gli occhi azzurri, accidenti. Sei l'anima stessa della scialbezza, se scialbezza esiste come termine. Non sarebbe neanche un brutto ragazzo, se non avesse quella maschera di brufoli. Sì, dicono che crescendo se ne andranno, ma io sono per il presente. Eccomi alla lezione di storia. Nicola entra in classe e si siede vicino a me. Accidenti, ti siedi sempre al primo banco, perché oggi vicino a me? Beh, almeno hai il libro. Eccomi a ricreazione, sono al bar della scuola e lui è dietro di me. Speriamo non allunghi le mani. È vero che non lo ha mai fatto, ma non si sa mai, visto che mi guarda sempre il culo. Accidenti, mi mancano 50 centesimi. Ma avevo fatto i conti giusti. Lui mette i soldi che mi mancano e mi fa un sorriso. Beh, almeno è gentile. Eccomi all'ora di educazione fisica. Siamo lì in palestra e il professore ci fa mettere a coppie. E visto che oggi ancora non l'avevo incontrato, capito proprio con Nicola in coppia. Beh, almeno fa gli esercizi bene. Almeno un cavolo però! Mi ha stancata, non può ronzarmi intorno tutto il giorno e devo trovare il modo per fargli capire che deve smetterla, Prendo Silvia e Irene da parte e loro hanno già l'idea giusta per risolvere la situazione. Eccoci nei bagni. Usiamo i bagni della palestra come spogliatoi. Sono comunicanti dall'alto perché hanno una finestra sola. Entra Nicola. Lo spiamo mentre si cambia mettendoci in piedi sopra la tazza. Aspettiamo che rimanga in mutande e gli svuotiamo addosso due bottiglie di aranciata appena prese al bar. No, che fai? Stai riprendendo! Dopo non si è nemmeno presentato in aula. Almeno non ha fatto la spia. Eccomi di nuovo a scuola. È passato qualche giorno. Nicola è dall'altra parte della classe. Vedi che non mi guarda neanche? Irene ha insistito perché ha il filmato su internet. Coglione sul cesso sotto l'aranciata, il video più cliccato della settimana. Ora non mi rompe più. Eccomi alla gita, o per meglio dire, viaggio di istruzione. Barcellona. Sono qui giusto per il Mare Magnum, non per la Sagrada Famiglia. Ed infatti eccomi in discoteca. I professori neanche ci controllano, tanto siamo quasi tutti maggiorenni. Musica, luci, drink. Ballo senza tregua, canzone dopo canzone. Silvia e Irene hanno pure rimorchiato. Che fichi! No, uno è pure moro con gli occhi verdi, che stronze! Ma guarda quello, per quanto ho bevuto non si regge neanche in piedi. Ma chi se ne importa, io continuo a ballare senza sosta. Sì! Ma che ore sono? Cavolo, quanto è tardi! Dove sono gli altri? Mi giro intorno e non vedo più nessuno. Neanche Silvia e Irene ci sono più. E adesso? Esco dalla discoteca e mi avvio verso l'albergo. Era a destra o a sinistra? Ma che ne so. Vabbè, facciamo a destra. E quelli? Ciao! Ma che mi seguono? Faccio finta di niente. Mi seguono davvero? Accelero il passo, magari li scoraggio. Invece no, accelerano anche loro. Mi giro, non li guardo, non li devo guardare. Ridono. Uno mi indica. Mamma ha detto di stare attenta, invece guarda che situazione. Corro? No, e come faccio con i tacchi? E se mi prendono? Cazzo, mi sono quasi addosso. Stupida, sono una stupida, accidenti a me. Ma dove sono? Nicola, c'erano degli stronzi che mi stavano... Ma che ci fai qui? Mi riporti in albergo. Non ho certo bisogno del tuo aiuto. Ce la faccio benissimo da sola. Ehi! Ma... come ti permetti? Ah, sono anche stupida? Ma guarda che io ti... Tu sei... Ma io... Tu... Io... Io ti adoro. Stavo caricando per colpire una palla di carta a terra. In classe giocavamo sempre a calcio con palle di carta. In quel momento, mentre la mia gamba andava indietro per caricare il tiro, Federico si stava chinando per raccogliere da terra il temperino. L'ho preso in pieno viso con il tallone. L'ho visto andare indietro mentre emetteva un grido mezzo soffocato dalle mani che gli coprivano il volto. Tutti che si girano, seguendo l'urlo, e io lì, immobile, che non riesco neanche a prendere aria, terrorizzato dal sangue che usciva a fiotti dal suo naso. Gli avevo rotto il naso. Venni sospeso per una settimana, non importava se lo avessi fatto di proposito o no, la mia versione era del tutto ininfluente. Tornato a scuola una settimana dopo, notai una cosa strana. Tutti mi guardavano in modo diverso. Per dirla tutta, mi guardavano. Prima non ero granché considerato. Passavo tra la folla senza destare il minimo interesse. Invece ora, studenti e professori mi osservavano. Ennio, il bidello, con un leggero sorriso mi faceva segno di sì con la testa. Arrivai in classe. Federico non mi guardava. Aveva il naso fasciato e sotto gli occhi era livido, ma a parte questo, il parlottare dei compagni e il leggero tono acido nel pronunciare il mio nome durante l'appello andò tutto come sempre, fino alla ricreazione. Durante la ricreazione andai in bagno, quando scappa. Come entrai, vidi tutte le teste girarsi all'unisono verso di me. Ebbi un attimo di terrore. Poi il caos. C'era chi mi offriva una sigaretta, chi un tiro di canna, e tutti che mi chiedevano di raccontare come fosse andata, che aveva fatto Federico per farmi arrabbiare così. Inizialmente spaesato, alla fine della ricreazione non ero riuscito ad andare in bagno e mi ero montato la testa. I giorni passavano. Io e la mia leggenda crescevamo a dismisura, senza controllo. Sì, insomma, mi feci prendere un po' la mano dalla popolarità. Un giorno, durante una delle mie conferenze, in bagno, mi giunge voce che Daniele, un ragazzo dell'altra sezione, si fosse avvicinato troppo a Maura. E allora prontamente ho detto... E io che pensavo fosse un amico, ma me la paga! Scoppiò un boato. Grida, schiamazzi, risate, gente con gli occhi sbarrati che non vedeva l'ora che scoppiasse la rissa, mentre io mi sentivo morire solo all'idea di trovarmi davanti uno più grosso di me, vice campione italiano di judo. C'è da dire anche che io e Maura non stavamo insieme, anzi, siamo usciti solo una volta, e quando io mi sono avvicinato per provare a baciarla, lei si è scansata lasciandomi andare a vuoto. Perché avrei dovuto affrontare un tipo, campione di judo o meno, per una che mi ha fatto andare a vuoto? Il giorno stesso all'uscita di scuola avevo con me una coda di persone che davano consigli, proponevano piani, addirittura uno mi diede un coltello dicendomi di puntarglielo alla gola. Io rifiutai gentilmente l'offerta dicendo che lo avrei affrontato a mani nude. E partirono gesti d'ammirazione, pacche sulle spalle, parole d'elogio. Ero un morto che camminava. Sapevo con certezza che Daniele mi avrebbe tritato a mano senza fare troppi complimenti. Alla fine di questa improvvisata assemblea rimanemmo che io avrei dovuto affrontare Daniele in bagno durante la ricreazione e per evitare che non si presentasse, Mirko, mio compagno di classe, si incaricò personalmente di portarmelo. Il giorno dopo entrai in seconda ora. Io in realtà ero tentato di non entrare per niente, ma ci fu qualcosa che mi spinse inesorabilmente verso il portone d'ingresso. Anche quel giorno Ennio con un sorriso mi fece cenno di sì con la testa. Possibile che già lo sapesse. In classe speravo che si verificasse una di quelle situazioni in cui 2 ore ti sembrano non arrivare mai, invece si verificò l'esatto opposto. Anche l'interrogazione di storia sembrò velocissima, ma è quando serve. Appena suonò la campanella per l'intervallo, Mirko scattò in piedi e si diresse con passo svelto fuori dall'aula. Inizialmente non mi alzai, ma quando capii che i miei compagni mi guardavano, feci un sorriso furbo. Con lo sguardo ammiccante e la morte nel cuore, mi alzai e mi avviai verso il mio destino. Arrivato in bagno trovai tutti, in silenzio, come schierati verso l'entrata. Neanche quando entrai fecero un fiato. Nessuno che parlava, nessuno che fumava, nessuno che rollava, insomma, nessuno che si muoveva. Ero appena entrato in un quadro. Le pareti erano tutte occupate, non potevo che piazzarmi al centro. Entrano Daniele e Mirko, la porta viene chiusa. Vedo Daniele che evidentemente si domanda cosa stia succedendo, tutti guardano la scena come al cinema. Maura, la devi lasciar stare! Lui non mi risponde. Maura, la devi lasciar stare! Lui rimane immobile in silenzio, io mi avvicino a lui e come un mantra ripeto più volte: Maura, la devi lasciar stare! E anche quando lui cerca di giustificarsi lo interrompo con la solita frase: Maura, la devi lasciar stare! Poi lo prendo per il colletto della maglietta senza pensare che con un dito mi avrebbe potuto far volare via come una foglia, ma lui non si muove. C'è gente che riprende la scena con il cellulare e il pomeriggio già sarà su internet. Dopo averlo scosso qualche volta ripetendo quella frase che ormai era in automatico, lo lascio e gli urlo contro: hai capito? Non ti ci devi più avvicinare! Una parte di me era completamente terrorizzata, un'altra parte del tutto galvanizzata. Cazzo! Avevo impressionato Daniele, che andò via in silenzio e tutti quanti: bravo! Bravo! Bravo! Mamma mia, che paura! Quasi quasi cambio idea su di me. Maura lo ha già fatto. Dopo aver visto uno dei filmati su internet, è molto più disposta nei miei confronti. E questa volta mi ha baciato. Vedi, a saperlo diventavo prepotente prima. Ogni mattina mi sveglio con un pensiero in testa: raggiungere la perfezione. Fortunatamente parto da una buona base. Altri non hanno la mia stessa fortuna. Non sono né belli, né intelligenti, e fisicamente impreparati. Ma forse è per questo che alcuni rinunciano in partenza. Anche se a chiederglielo dicono che non ci hanno mai pensato. E certo, tanto l'uva acerba, no? Mi alzo sempre di buon'ora e prima di qualsiasi cosa metto una crema per il viso, così da prevenire le rughe e da sgonfiare le borse sotto gli occhi che si formano la notte. Mentre aspetto che faccia effetto, comincio il riscaldamento mattutino. Ogni giorno mi concentro su un gruppo muscolare diverso, ma quando, finito il riscaldamento, faccio allungamento, non tralascio nessun punto del mio corpo. Faccio 5 tipi di stretching diverso, dal balistico all'isometrico, e non c'è parte di me che non conosca perfettamente. Possiedo il controllo totale di ogni mio movimento. Finiti gli esercizi, faccio la doccia. Ho una volta sentito dire che lavarsi la testa tutte le mattine fa bene, perché con la testa pulita si ha una sensazione di freschezza per tutto il corpo. È vero. Prima di colazione ancora qualche esercizio. Canto. Il momento è quello giusto. Non ho le corde vocali come appena sveglia ed è già possibile fare rumore senza che nessuno disturbi me. Il riscaldamento delle corde vocali, qualche vocalizzo e un giorno sì e uno no si canta. Finalmente posso andare a fare colazione. Sono cose naturali, niente merda. Solitamente latte, cereali, frutta di stagione, niente zucchero, niente caffè, fanno male. Esco di casa e mi dirigo verso scuola. Non prendo mai l'autobus, farà morire. Eccola. Lì ad aspettare alla fermata c'è quella flaccidona. Non riesco a capire come faccia a vivere senza vergognarsi. Non accetto la mia stessa base, ma potrebbe cercare di aiutarsi. Comunque, arrivo a scuola e lì fuori incontro Giulia ed Erika. La flaccidona arriva poco dopo. Ma cosa lo prende a fare l'autobus e si fa prima a piedi? Non è poi una distanza così sconsiderata. In classe io occupo il primo banco di fronte alla cattedra. Vicino a me Giulia ed Erika. Dietro il resto della classe. Nessuno si mette in prima fila. Tutti hanno il timore, non si sa di cosa. La flaccidona però oggi è in prima fila. Ma che vuole? Perché non se ne va dietro come il resto dei perdenti? Ok, la ignoro. Non posso darle tutta questa importanza. Interrogazione di storia. Io non vengo neanche guardata dal professore. Ha paura che gli faccia fare la stessa figuraccia di sempre perché ne so più di lui. Interroga Michela. Ah, la flaccidona. Non mi ricordavo si chiamasse così. Ma non è importante il suo nome. Non conta, come non conta lei del resto. Ora d'inglese. Interrogata sempre lei. Ma cos'è oggi? Nessuno mi fa una domanda neanche di sfuggita? Non vengo chiamata neanche se alzo la mano per rispondere. Ma non si rende conto della pronuncia orribile che ha? Fanculo. Finisce l'ora e non mi sento soddisfatta da questa giornata. Magari potrò rifarmi all'ora di educazione fisica, anche se solitamente è una lezione del tutto in sapore, visto il mio standard di allenamenti. Non importa. Mi impegnerò al massimo come sono abituata a fare. Mi alzo dal banco per dirigermi in palestra. La flaccidona si alza tanto velocemente quanto goffamente dal banco e mi taglia la strada per uscire prima dalla classe. Ma come si permette? La lascio perdere. Lei non è importante. Penso a me, solo a me. Sono io che valgo. Arrivo negli spogliatoi e mi cambio. Lei si è messa al mio posto, ma tu guarda quanto è stronza. E puzza pure. Comincio a non sopportarla più. Sono calma e tranquilla, ma il mio limite non è insormontabile. In palestra cominciamo con quell'allenamento da 4 soldi, mai fatto un minimo di teoria. Finiremo poi immancabilmente a giocare a pallavolo ed infatti ci dividiamo in 2 squadre e cominciamo a giocare. Giulia ed Erika non sono nella mia squadra, ma Michela sì. È il suo turno di battuta. Io sono rivolta verso la rete e l'idiota batte direttamente addosso a me. Io faccio finta di nulla, ma la voglio ammazzare. Durante la partita ha dato più intralcio che aiuto, ma non importa, è una partita inutile, anche se abbiamo vinto. Lasciamo perdere. A fine lezione vado nello spogliatoio. Arriva lei che puzza ancora più di prima e passando mi fa cadere la maglia pulita. Basta. Non ci vedo più. Raccolgo la maglia e gliela metto intorno al collo, mentre le premo il ginocchio destro contro la schiena. Lei si divincola, tolgo la maglia, le prendo la testa e la sbatto contro il muro, mentre stordita apro la porta del bagno e ce la butto dentro con un calcio! Che rimanga lì la flaccidona! Non le bastava essere ignorata, no! Voleva proprio che la prendessi a calci! Ho detto che sono una tipa tranquilla. Ma cazzo, se l'è cercata. Mio padre era calabrese. Era non perché sia morto, e che adesso è marchigiano. Questo è possibile perché qualche anno fa dovette andare via dalla Calabria per questioni un po' delicate. Visto che nelle Marche era scoppiato un terremoto e c'erano diverse persone disperse, lui ne approfittò per cambiare generalità. Sì, una specie di sciacallo di identità. Il nostro spiccato accento, certo, veniva notato, ma bastava giustificarlo con una piccola scusa inventata d'arte da papà. Io presi il nuovo cognome di mio padre e andammo a vivere in un paesino nelle vicinanze di Ascoli. Sia io che lui avevamo i nostri problemi per ambientarci. Non mi bastarono 5 anni di scuola elementare e 3 di medie. Arrivai al liceo che non avevo nemmeno un'amica. Pensai che la soluzione per trovare amicizie era quella di infilarsi nel cortile durante la ricreazione e cominciare a fumare. Magari così scambiavo qualche parola con qualcuno. Ma non ci riuscivo. Fumavo sempre sola. Non ero ben vista dai miei compagni. In particolare ero odiata da Roberta, una ragazza della mia classe pluribocciata. 18 anni e stava ancora in quarto ginnasio. Lei era una delle maggiori fornitrici di fumo della scuola. Aveva una sorta di attività e credo che le rendesse abbastanza. A me non voleva venderlo e infatti mi rifornivo da altri. Anche in questo caso però fumavo sola. Chissà perché, qualche tiro gratis non attirava nessuno. Ero l'antitesi del miele per le api o la cacca per le mosche. Roberta faceva ogni sorta di cattiveria nei miei confronti per rendermi ridicola, dentro e spesso anche fuori da scuola. Per tornare a casa percorrevamo la stessa strada, abitavamo vicino. Ma io dovevo aspettare almeno una mezz'ora per mettermi in viaggio, perché se mi vedeva camminare dietro, davanti o di fianco a lei non me lo perdonava. Mi picchiava per farmi capire che non dovevo farmi vedere da lei, con lei, vicino a lei, che guardavo lei e tutte le altre possibili variabili. Io cercavo di passare inosservata, ma incredibilmente le finivo sempre davanti. E per quanto una persona sia buona e tranquilla, con un trattamento del genere, senza alcun conforto, è difficile autosostenersi a lungo. Avrei voluto evitarla, ma lei era inevitabile. Avrei voluto reagire, ma lei era più forte. Avrei voluto parlarle, ma lei non ascoltava. Io ci ho provato. L'idea mi venne dopo aver letto una storia alla fine degli anni Ottanta. Il soggetto protagonista è conosciuto come Ercanaro. E avendo trovato delle analogie tra la sua storia e la mia, mi sono chiesta se non fosse destino essermi incrociata con quel fatto in coincidenza con la mia decisione di farla finita. Io non volevo farle del male, ma l'idea di tenderle un agguato per farle capire che non ero da sottovalutare, beh, quello sì. Era mercoledì. Non andai a scuola, ma verso l'orario di uscita mi nascosi dietro il muro di un cantiere isolato che costeggiava la strada da casa a scuola. Il cantiere era fermo da qualche mese per mancanza di fondi e sparsi qua e là si trovavano attrezzi abbandonati dagli operai. Vidi una pala che andò subito a rimpiazzare il ramo secco che avevo raccolto per il mio scopo. Aspettai un po' e quando la vidi passare con quella sua camminata spavalda e le cuffiette alle orecchie, tirai su la pala con decisione, le andai dietro e gliela diedi in testa con tutta la rabbia che avevo. Subito dopo non riuscivo nemmeno a rialzare la pala. La trascinai giù all'interno del cantiere, la stronza maggiorenne quanto pesava. La legai con il filo di ferro, non la imbavagliai. Eravamo abbastanza isolate per stare tranquilla, ma questo fu il mio errore. Appena ripresi i sensi, non capiva bene cosa stesse succedendo, ma quando realizzò dove fosse e chi fossi io, cominciò a strillare come una gallina. Non mi lasciava parlare, mi aspettavo, sì, qualche strillo iniziale, ma che finisse subito, non una cosa così energica. Cercai di zittirla, a parole, a gesti, a calci, ma quella non si placava, si dimenava, strillava sempre di più e ad un certo punto cominciò anche a sputare, non sapevo come fermarla. D'istinto, senza più pensare troppo, esasperata da quelle grida insopportabili, presi un mattone e glielo diedi addosso e continuai ancora, ancora, ancora, ancora! fino a quando non la sentì più. Non la volevo ammazzare. Volevo che capisse. Volevo che smettesse. Ma lei non si fermava. Con la presente annuncio il mio suicidio. Mi ritengo una persona obiettiva, spero di esserlo stato davvero fino in fondo. Visto il tempo che mi sono preso per decidere il da farsi, non voglio concludere frettolosamente la mia lettera salutando solo le persone care e incolpando il mondo. Voglio salutare più di una persona, amici e nemici. E il mondo. Non incolperei mai un pianeta. Non voglio dare la colpa alla società, a questo informe ammasso di persone non ben definite chiamato società, ma a quelle persone che nello specifico mi hanno portato a prendere questa decisione. Questa parte è rivolta a voi, miei cari coetanei, che pieni di insicurezze, forse quanto me, avete trovato sfogo coalizzandovi contro un diverso, ma quanto diverso poi? E perché? Due braccia, due gambe, un tronco e una testa, in linea di massima ci somigliavamo, eppure io ero diverso. Sì, parlo di me già al passato, già mi vedo come un'entità che aleggia su di voi ricordandovi quanto siete stronzi. Torniamo a voi, e non a noi. Voi, miei cari professori, vi ho visti esercitare il vostro potere come peggio potevate, salvando chi temevate e ignorando gli altri. Il metodo Montessori è intrinseco in voi. L'insegnamento non è per tutti, questo è risaputo. Ci sono persone che lo fanno per passione e persone che ci si ritrovano, ma conoscere un argomento non vuol dire saperlo insegnare. Il lato umano non lo dovreste tralasciare. Papà, ti voglio bene, ma oltre a dire fatti rispettare, non hai saputo far nulla per me. Cosa avrei dovuto fare secondo te? Un consiglio più concreto mi avrebbe fatto comodo. Io sono andato per tentativi, ma ogni volta pare sbagliassi. Oh, che non si dica che mi sono arreso subito. Mamma, la soluzione non è sempre una torta al cioccolato. Ok, è buona, fai delle torte eccezionali, ma non risolve nulla a parte uno sfizio di gola. Probabilmente, alla fine della lettera, scoprirete che anche le altre persone sono anatomicamente come voi. Vi domanderete cosa sia il metodo Montessori, eviterete di chiedere consiglio a mio padre, prenderete una fetta di torta di mia madre e vi chiederete chi cazzo sono io. Tutti voi. Io vi odio. E odio me per essere così. Così consapevole di tutto quello che mi circonda e non riuscire comunque a cambiare nulla, vedere quello che ho visto e rimanere impotente mentre vorrei cambiare il mondo. Non ce la faccio. So che prima o poi verrò inglobato nella fantastica normalità di questo mondo, ma non è quello che voglio. La falsità che lo avvolge non mi affascina. Lei che dice a lui di non fare una cosa per poi farla a sua volta, il figlio che critica il genitore per poi diventarne un'esatta copia, i fratelli che litigano per frasi riportate da altri, i compagni che ti allontanano perché preferisci giocare a ping pong piuttosto che a calcio. Non è questo il mio caso. A me piace molto il calcio, anche se non ho i piedi per giocarci. Sì, forse sto uscendo un po' dal seminato, ma è quello che vedo. Questo e molte altre cose le vedo chiaramente, le vedono tutti, ma non tutti come me. Non che la mia visione sia necessariamente quella giusta. Pensavo ci fossero delle cose oggettive, ma cos'è l'oggettività se non la visione della maggioranza? Credo sia così e non posso farci nulla. Mania di protagonismo? Forse. Ho la forte presunzione di capire tutto. È questa la mia tragedia. Ho sopportato tanto e questo mio gesto di vigliaccheria è per me solo una liberazione. Prima di cominciare a scrivere avevo le idee così chiare, è assurdo come tutto si annebbi in questo momento, spero solo di non dimenticare nulla. Accuse, congetture, saluti. Queste accuse verso terzi non sono gli unici motivi della mia dipartita. Anche io ho la mia parte di colpa, diretta o indiretta che sia. In quest'ultimo periodo io ho abbandonato me stesso. Mi spiego, non mi sono lasciato andare. Il mio cervello sta andando in pappa. Cose che fino a ieri ricordavo alla perfezione oggi mi sfuggono con facilità. Prima che succeda l'imponderabile, prima che la lucidità a me tanto cara svanisca, voglio poter avere la possibilità di mandare tutti a cagare ricordando ciò che è stato fatto. Anche se credo di aver detto già abbastanza. Passerei quindi ai saluti. Ciao. Bene, sei pronta? Certo. Sono semplici domande, niente di assurdo. Ok. Cominciamo con la registrazione. Buongiorno. Parliamo di bullismo. Hai presente, no? Sì, sì. Nella tua scuola ci sono... Scusa, riformulo la domanda. Tu hai mai visto episodi di bullismo? No. No? Cioè, boh, tu che intendi di preciso? Bullismo? Hai detto che sapevi cosa fosse? Certo. Ecco, volevo sapere se hai mai assistito a episodi del genere. Tipo persone che fanno a botte? Non solo quello, ma sì. Ne hai mai visti? No, non mi sembra. Non ti sembra? Nel senso che non ne sei sicura? Credo di esserne abbastanza sicura. Abbastanza. Ma non ci sono prepotenti tra i tuoi compagni? Boh, non mi sembra. Oddio, c'è quello del quinto F che ha rotto il naso a uno. C'è quello del quarto G che quasi strangolava uno. Questo intendevo per bullismo. Sì, ma hai chiesto se li avevo visti. Scusa, hai ragione. Forse non sono stato molto chiaro. No, senti, facciamo prima se mi dici che cosa vuoi sapere. Sì. Sei a conoscenza di episodi di bullismo tipo quelli che mi hai appena nominato? Sì, quelli che ti ho nominato. Solo quelli? Ma no, ce ne sono un sacco. Bene, potresti raccontarmeli? Mio fratello, lo scorso anno ha pestato uno perché questo l'aveva guardato. Solo perché lo aveva guardato? E io che ho detto? Sì, ma non mi sembra... No, infatti non è stato molto carino. Stavo per dire normale. Ah. Ma andiamo avanti. Quali provvedimenti sono stati presi? Per? Beh, con tuo fratello. Sì, ma per cosa? Hai detto tu che ha pestato un altro ragazzo. Sì, ma nessuno ha detto niente. Il tipo ha detto di essere caduto dalle scale e chi ha visto è stato zitto per paura di prenderle. Quindi una forte omertà. Non lo so. Però se parlavano gliele davamo. Avresti aiutato tuo fratello a picchiare qualcuno? Tra fratelli ci si aiuta. Non credi sia di maggior aiuto parlarci? E io ci parlo con mio fratello. Sì, ma per dirgli che non è questo il modo di relazionarsi. Ma usi tutte queste parole difficili, ma dirgli che... Per dirgli che non deve pestare un'altra persona soltanto perché l'ha guardato. Vabbè, ma non è colpa sua se lo guardano. Quindi per te è normale quello che ha fatto? Per me sì. Non lo trovi strano? No. Da prepotente? No. Non credi che... E basta, ma perché mi devi fare innervosire? Sono già tanto nervosa di mio. Io devo capire. Ma cosa? Cosa c'è da capire? Uno ti guarda e tu gli fai capire che si deve fare i cazzi suoi. Ma perché mi deve guardare? Se vuole avvertirti che, non so, hai una cosa sulla guancia. Me lo dice senza guardarmi. È un controsenso. Magari per te, ma non per me, ok? Stai dicendo sul serio? In realtà no. Come? E mi stavo annoiando, volevo rendere l'intervista un po' più movimentata. Cosa? Ma io neanche ce l'ho un fratello. Però il tipo del quinto F che ha rotto il naso a un compagno lo conosco. Pensa che gli ha dato un calcio. No, no, lascia perdere. Perché? Guarda, non peggiorare la situazione. Ma che situazione? La tua. Credi sia un gioco? Io sono qui per un'inchiesta seria. Lavoro, non sto cazzeggiando. Scusa. Scusa al cazzo. Oh, ma stai calmo, no? Non può fare neanche una battuta. Non quando si parla di cose serie. Ma io volevo veramente aiutarti. Si vede. Ma no, dai, guarda, ti prometto che non lo faccio più. Da adesso in poi sono la persona più seria del mondo. E come mi posso fidare? Ma dai, fidati. Il bullismo non è una cosa da prendere sotto gamba. Ma l'hai fatto? Sì, e ho sbagliato. Però mi voglio fare perdonare. Va bene, facciamo che mi fido. Dai, dimmi tutto. La domanda è la stessa. Hai visto o sei a conoscenza di episodi di bullismo? Sì. C'è una persona qui a scuola che va in giro con un coltello e minaccia gli altri per farsi dare i soldi o magari farsi fare i compiti. E nessuno dice nulla? Qualcuno ci ha provato. Però poi la vendetta sullo spione è stata terribile. Così nessuno prova più a parlare. Che tipo di vendetta? Il ragazzo che per primo ha provato a parlare, ora è inciso sulla schiena un pene. Un pene? Esatto. Ma intendi... Hai presente il pisello? Sì. Ecco quello. Mi stai prendendo di nuovo in giro? Guarda, non puoi capire che faccia che hai fatto. Sei proprio una ragazzina deficiente. Spero proprio che capiti tra le mani di uno di quei prepotenti che prendi tanto alla leggera. Ma vaffanculo, stronzo! Interviste inutili. Siete voi che ingigantite qualsiasi cosa. Lo sanno tutti che il bullismo non esiste.